già ballato la mazurca, il mambo proprio non ti va. Se anche diverte il tucca tucca, lo lasciamo alla carrà. Ti ha sempre detto che sei grande con lo ska, muovendo il fiacco nel flamenco sei cresciuto. Dalla milonga sei passato al cia cia cia, se vuoi ballare c'è una sola novità. Balla il blu col naso in su, respirando l'aria pura. Balla il blu, non smetter più, balla finché dura. Con l'alligagli hai detto basta e nella salsa non ci sto. Se la lampada ti ha colpito, almeno tu hai detto no. Non ti vorrei scoprire un giorno, poi chissà, senza entusiasmo trascinare un passo doble. Negli anni ottanta nella break sei stato già, si sa che il funky rende stanchi anche di più. Balla il blu col naso in su, respirando l'aria pura. Balla il blu in un IGV, balla il blu nella natura. Balla il blu col naso in su, respirando l'aria pura. Balla il blu in un IGV, dentro alla natura. Adesso puoi frenare, aspettami, fai proprio come me, non puoi bruciarli questi attimi, sei in un IGV Club.